Radio Beograd, prvi program. Radio Zagreb, Sarajevo, Titograd i Novi Sad. Veselo veče. Za službena putovanja koristite prednosti prevoza avionima JAT-a. Novo imenovanog, izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Sovjetskog saveza Jugoslaviji. Sve mladiće volim, kako da odolim. Zeleno tražim. Mi smo more krvi proljeli za bratstvo i jedinstvo naših naroda. Utakmica između Partizana i Hajduka. Raz, dva, tri, majčeki! Blagane zore, Balkan Rock, Kudeberista, Sumaj Radio, Fabrična jutra, muzika, pop kultura e curiosità dal mondo jugoslavo. Buonasera, Balkan Rock, oggi è maggio. Oggi è maggio. Che numero è di maggio? 20, vale, 20. Il 20. Penso la cognizione del molto tempo. Bene, sono le 21.02, io sono molto stanca, potrei fare degli sbadigli al microfono, voi non ve ne curate. Cosa stiamo ascoltando in sottofondo? E nel sottofondo c'è Darko Rundek con una canzone lunghissima intitolata Drina. Bene, Drina, perché andiamo un po' a introdurre il tema della serata dopo le recenti inondazioni che hanno colpito parte della popolazione bosniaca e serba. Questa sera andremo a indicarvi un po' tutte quelle che sono i modi in cui potrete aiutare sia dal punto di vista finanziario che dal punto di vista proprio della manovalanza e dello svuotamento delle vostre cantine. Ci sono diversi modi in cui potete rendervi utili e quindi dopo l'ascolto di questa canzone andremo a raccontarveli. Drina je tekla mutna k- tvoga tijela sa mnom bila je još. Sebi su nas vukla gola tijela janjića, rakija je jača nego briga najveća. Za istoka tuga i bol, sa zapada pare na sto. Allora interrompiamo le note tristi di Darko Rundek per cominciare così ad entrarci nel tema della serata. Intanto salutiamo tutti i nostri radioascoltatori, in particolare dai gruppi che ci seguono, che sono tantissimi, sono ad esempio I Love You, gli Jugoslavi in Italia, poi il gruppo appena creato proprio per l'occasione che si chiama Torino per l'ex You, a cui appunto vi invitiamo di partecipare nel caso in cui vogliate dare una mano. E quindi la chicca di questa sera arriva proprio da Yasmina del gruppo in questione, che dice, che riporta il racconto di Mirela. Dice: oggi domenica 18 maggio ammetto di essermi sbagliata, credevo che nella mia città natale qualcosa del genere non potrebbe mai accadere, soprattutto dai giovani. Generalmente non avevo un gran bel pensiero. Dunque la città è piena, come se ci fosse il mercato. La gioventù compra, porta nei sacchetti, nelle scatole di cartone. Dovunque mi giravo qualcuno stava telefonando, informandolo dove portare gli aiuti. Tutto brulica dalla bellezza, persino mia madre, consumata dalle fatiche, semplicemente si è fermata e si è messa a piangere. Mi sono ricordata dei tempi che questi giovani non possono ricordare, nel lontano 69, dopo il terremoto, quando letteralmente l'intera Jugoslavia, solo un paio d'ore dopo il secondo urto, ha intasato tutte le vie verso Bagnaluca con i camion pieni di aiuti. Brava mia piccola Bagnaluca. Quindi questa era Mirela da Bagnaluca. Andiamo avanti con gli aggiornamenti che arrivano direttamente dall'associazione Trentino con i Balcani, da cui appunto, di cui potete leggere il blog trentinobalcani.wordpress.com. Gli aggiornamenti sulla situazione arrivano anche dalla Fonse ansa.it. scusate, ma stasera sono davvero davvero un po' stanca. Dunque, in Serbia e in Bosnia Erzegovina, che sono sconvolte da inondazioni devastanti, le più gravi degli ultimi 120 anni, continuano senza sosta le operazioni di soccorso ed evacuazione delle popolazioni minacciate dall'acqua alta e dalla piena dei fiumi. Le misure del governo si concentrano in missioni di emergenza di soccorso, rafforzamenti degli argini dei fiumi, pulizia degli alvei dei canali, approvvigionamento regolare di elettricità e acqua potabile in luoghi densamente abitati, organizzazione di luoghi di accoglienza provvisori per le persone sfollate. I bisogni più urgenti richiesti dalle organizzazioni della società civile con cui sono in in contatto sono barche, pompe d'acqua, stivali di gomma, acqua potabile, cibo in scatola, materiale di igiene, cibo per neonati, vestiti, scarpe, coperte e materassi. Questo quindi il materiale che si sta tentando di raccogliere un po' in tutte le città, quindi a Torino come a Milano come a Trento. Ripeto, potete trovare gli aggiornamenti sui materiali raccolti e sui punti di raccolta sul sito Balkan Rock at My Radio, eppure sul sito Torino per l'ex EU, se siete di Torino. Quindi i morti accertati nei due paesi balcanici sono finora una quarantina, ma il bilancio è destinato sicuramente ad aumentare dal momento che le autorità hanno fatto sapere di non voler comunicare nuovi dati aggiornati per non creare panico e shock nella popolazione già abbastanza provata dalla furia delle intemperie. Il timore di trovare tanti cadaveri con il ritirarsi delle acque è stato espresso dal premier serbo Vucic. Il maggior numero di vittime, una trentina, si registra in Bosnia-Erzegovina, mentre in Serbia i morti di cui si ha notizia sono almeno 7. Decine di migliaia le persone costrette a lasciare le proprie case ed evacuate in centri di raccolta, hotel, impianti sportivi e fieristici. Solo in Serbia, dove le regioni più colpite sono quelle centrali e centro-occidentali, gli sfollati erano fino a stamane oltre 22.000, più di 15.000 in Bosnia-Erzegovina, dove si moltiplicano frane e smottamenti rovinosi. La situazione più critica resta quella lungo il corso del fiume Sava, che attraversa sia la Bosnia a nord sia la Serbia a est della capitale Belgrado. In queste regioni sono in corso massicce operazioni di evacuazione anche in centri abitati importanti come Sremska Mitrovica, che è un sito rilevante per l'archeologia romana, Šabac, Obrenovac, tutti in Serbia, i comuni appena citati. Grande attenzione viene rivolta alla difesa delle centrali termiche elettriche importanti per l'erogazione dell'energia elettrica. In Serbia poi sono ancora più di 100.000 le famiglie senza energia. Con l'esercito appoggiato da mezzi pesanti ed elicotteri, alle operazioni di soccorso partecipano migliaia di giovani e volontari giunti da ogni angolo del paese. A Belgrado, della piena della Sava, che in città confluisce con il Danubio, è attesa per oggi o domani, e sono in corso le operazioni di consolidamento degli argini. Si intensifica l'afflusso di aiuti dall'estero. Oggi sono giunti a Belgrado e a Niš altri due aerei russi con a bordo soccorritori e aiuti umanitari. Eulex, la missione europea in Kosovo, ha inviato un elicottero, aiuti in denaro e attrezzature tecniche per i soccorsi. Hanno inviato l'Italia e numerosi altri membri UE, oltre che a tutti i paesi della regione balcanica. Benché meno estese e drammatiche rispetto a Serbia e Bosnia, le alluvioni in Croazia hanno finora causato un morto e due persone sono andate per disperse, mentre nel fine settimana sono state evacuate circa 15.000 persone da una decina di villaggi sul fiume Sava, nell'estremo est del paese. Quindi la Sava, che segna il confine tra la Croazia e la Bosnia, ha rotto ieri gli argini e ha inondato tre villaggi nella Slavonia orientale. Andiamo subito a parlare di quelle che sono le azioni che si stanno organizzando a Torino, dove il collettivo Azione Pace Onlus con il circolo CH4 e soprattutto grazie alla comunità dei cittadini dell'ex Jugoslavia presenti in Italia a Torino e ad altri, insomma, singoli cittadini, stanno raccogliendo aiuti da inviare nei Balcani. Potete trovare il punto di raccolta, segnatevelo bene, questo sabato a Torino, in via Passobuole 29, sabato dalle 10 alle 18. Quindi chi potesse collaborare può portare ciò di cui dispone proprio al circolo CH4, ripeto, ingresso via Passobuole 29, sabato dalle 10 alle 18, e se volesse naturalmente potrebbe anche, insomma, fermarsi a dare una mano per lo smistamento dei materiali. Adesso quelli che sono gli urgenti bisogni delle popolazioni colpite, c'è una lista inviata proprio dall'ambasciata in queste ore, con la lista dei materiali che possono essere utili. In primis sicuramente il cibo, quindi naturalmente cibo non deperibile, lattine, prodotti a base di carne, pesce, alimenti per bambini, pasta, sale, zucchero, riso, fagioli, olio, acqua. Poi i prodotti legati all'igiene, disinfettanti, disinfettanti per mani, maschere di protezione, guanti igienici, guanti da lavoro, saponi, detergenti per il lavaggio, dentifricio, igiene per bambini, quindi pannolini e quant'altro, e igiene per le donne, assorbenti e quant'altro. E poi attrezzature per la sistemazione degli sfollati, brandine pieghevoli, materassi, coperte, spugne, un kit da letto, biancheria da letto, abbigliamento e calzature, tende, fornelli da campeggio, sacco a pelo, tappeti, forno per la cottura, riscaldatori, piastra gas. Quelle che sono le altre esigenze potrebbero essere pale, scope, pennelli, pompe d'acqua, unità essiccatoi, accessori per disinfezione, colori per pareti, accessori per la pittura, legno e semi. E quindi per quanto riguarda appunto la comunità torinese, vi aspettiamo appunto sabato dalle 10 alle 18 in via Passobuole 29. Inoltre è in via dell'allestimento un punto di raccolta a Collegno. Un punto di raccolta, dicevo, a Collegno per la raccolta di aiuti, quelli che insomma ho citato poc'anzi. Il punto di raccolta serve solo per chi non potesse recarsi a Torino sabato appunto sarà lo spazio dedicato al punto di raccolta è presso l'Arcival Susa, che ha sede a Villa 5 in via Torino 9/6, viale Tom Benetollo. Potete portare insomma i vostri materiali tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 oppure il pomeriggio, ma è consigliabile telefonare. Dunque trovate anche per il punto di raccolta di Collegno, ripeto, presso l'Arcival Susa a Villa 5, anche qui le informazioni sul nostro gruppo Balkan Rock at My Radio. Allora, cosa stiamo ascoltando, Dusko? Stiamo ascoltando la sigla. Andiamo a sentire invece i Boy, un gruppo nosadese, Dosta Dosta Dosta, Basta Basta Basta, un brano del 1988, mi pare, un gruppo prodotto da Koya dei Disciplina Kitchmes. Wow. Dice qualcosa a qualcuno. Sentiamo i Boy. Dosta Dosta Dosta. Dosta Dosta, svega mi je dosta, un micro svetu nema više mesta. si odličan, izgledaš mi komič. Ha! E questa era Dosta, Dosta, Dosta dei? Dei Boie. Ah, mi è piaciuta, carina la scelta musicale di stasera. Avevo così paura. Benissimo, allora andiamo a continuare con insomma la programmazione della nostra serata. Sono preoccupanti le accuse che vengono fatte da parte della Chiesa ortodossa in queste ore. Pare che un prete ortodosso abbia addirittura commentato che questo è una punizione divina fatta perché insomma la popolazione ha cominciato ad avere dei costumi piuttosto inclini all'omosessualità. Queste insomma sono le considerazioni degli uomini della Chiesa ortodossa in Serbia, che pare che abbia donato poche lire alla causa rispetto a quanto potrebbe fare. Ma andiamo, insomma, ritorniamo in Bosnia, ritorniamo a Banjaluka, dove stiamo seguendo un altro caso a cui ci siamo affezionati particolarmente, che è il caso di Dušan Kovačević. Dušan Kovačević ha 5 anni ed è di Banjaluka e presto dovrà essere operato per la seconda volta dal dottor Murzi presso l'ospedale del cuore a Massa. I genitori di Dušan hanno perso la propria casa a causa della catastrofe alluvionale che ha colpito la città e la Bosnia Erzegovina venerdì 16 marzo. Dispongono esclusivamente della somma per il viaggio in Italia. È necessario raccogliere una somma di denaro che permetta alla famiglia Kovačević di ristrutturare almeno una parte della propria abitazione per poter permettere a Dušan uno spazio che gli garantisca una normale convalescenza dopo la difficile operazione che dovrà sopportare. Quindi abbiate lo stesso cuore con il quale Dušan dovrà affrontare l'intervento e donate appunto anche solo un euro per il caffè appunto per la causa Dušan Kovačević. Gli estremi per le donazioni, quindi gli estremi IBAN per la donazione per Dušan Kovačević, li trovate anche questi all'interno della nostra pagina Facebook Balkan Rock at My Radio. Ma adesso andiamo ad ascoltarci un po' di musica. Che dici? Sentiamo gli Azra, Užas je moja furka. Ovvero? Dai, non farmi tradurre sempre le canzoni. Te lo dico dopo. Va bene. užas je moja furka. E questi erano gli Azra, Užas je moja furka. Torniamo a parlare di Serbia, Bosnia e Croazia colpite dalle inondazioni. Si diceva prima delle raccolte fondi, materiali da inviare come aiuti. Si può anche semplicemente fare una donazione via telematica, versando anche una piccola somma attraverso PayPal o sui conti correnti dedicati. Ne facciamo un esempio: ad esempio c'è questo sito che si chiama floodrelief.gov.rs, sarebbe un conto dell'ufficio diplomatico serbo di Bruxelles presso l'Unione Europea, da dove i soldi poi vengono trasferiti ai ministeri competenti che si occupano dei sfollati, dei danni. Altrimenti si può fare dei versamenti direttamente alla Croce Rossa, Croce Rossa serba, Croce Rossa croata, bosniaca, insomma è facile da trovare con una piccola ricerca su Google. C'è la sezione in inglese, ad esempio sul sito della Croce Rossa croata c'è alla sezione Get Involved e Donate, si seleziona un menu a tendina, si seleziona il paese al quale si vuole donare e si può fare anche con la modalità PayPal. Toglimi una curiosità. Tu sai come funziona il PayPal? Sì, devi avere un account associato ad un'email, il tuo conto PayPal deve essere collegato ad una carta, una prepagata, una carta di credito. Ho capito. E tu puoi spostare le somme che ti servono per le piccole spese online. Ok, per cui è molto semplice, basta. Sì, è semplicissimo, sì. Tanta gente lo usa per fare gli acquisti online, per eBay eccetera. Dunque, poi altri, c'è un appello dell'ambasciata serba in Italia su che tipo di aiuti sono necessari. Andiamo a vedere. Dice: si comunica che le donazioni per il risanamento dei gravi danni causati dalle alluvioni si possono effettuare sul conto dell'ambasciata della Repubblica di Serbia a Roma. C'è appunto un IBAN e un conto PayPal sul quale fare dei versamenti. Ci sono stati anche dei casi di sciacallaggi, cioè non in Bosnia, e anche più che di sciacallaggi, di rivendita degli aiuti a caro prezzo. Quindi le organizzazioni umanitarie poi consigliano alle associazioni che inviano gli aiuti di marcarle, di mettere sopra con un pennarello indelebile su ciascun prodotto un H, in modo che poi possano essere riconosciute come aiuti. Vabbè, questo sì, è diciamo una che delle tante raccomandazioni. Poi appunto dicono di non inviare più tanto i vestiti quanto altre cose, perché ce n'è a sufficienza. Ecco, questo è quanto, insomma basta fare una piccola ricerca e si riesce a capire. Comunque poi manderemo sulla nostra pagina Facebook le cose più attendibili, più sicure, ecco. Sì, tenteremo mandare un po' di fare un riepilogo della situazione, perché vi stiamo, è una selezione, diciamo. Sì, vi stiamo dando moltissime informazioni, ci rendiamo conto che insomma sia difficile per voi, come lo è anche per noi, seguire tutta la questione, anche perché è anche molto difficile difficile potersi sempre fidare. Insomma, le notizie che arrivano dalla Bosnia, come dicevi giustamente prima tu, sono di allerta. Fate attenzione, perché insomma è molto probabile che tanti degli aiuti umanitari possano finire sul mercato nero, per cui insomma bisogna fare molta molta attenzione, perché quello che noi facciamo in modo assolutamente in buona fede poi può trasformarsi così dall'1 al 2 in un pericolo non indifferente. Ecco, vediamo un po' gli aiuti che sono arrivati fino adesso. Sto leggendo che ad esempio l'ambasciata americana ha donato 145.000 euro, però soltanto in appunto vestiti, oggetti vari. L'ambasciata inglese 100.000 euro, l'ambasciata italiana 200.000 euro, l'ambasciata giapponese 73.000 euro. Poi ci sono anche le aziende che hanno fatto delle donazioni, le grosse aziende serbe come la SBB, che sarebbe penso un'affiliazione della Telecom, 215.000 euro da parte del provider di telefonia. Poi c'è Knjaz Miloš, quella dell'acqua frizzante, sì, quella delle acque e delle bevande, 100.000 euro. MK Group 88.000, Victoria Group, insomma anche le aziende si sono mosse, hanno fatto qualche donazione. Poi ci sono personaggi famosi, Bregovic ha donato qualcosa, ovviamente il Presidente della Repubblica Nikolić chiaramente non poteva fare a meno, in quanto personaggio di quel investito in quel ruolo, non poteva fare finta di niente. Poi c'è Nena Djokovic, il famoso tennista, che ha fatto una grossissima donazione recentemente, in questi giorni, forse proprio in Italia. Io del tennis non lo seguo, ha vinto anch'io un torneo, c'era un premio enorme di 400.000 euro per la vittoria, e l'ha devoluta interamente agli sfollati. Poi dicevi prima di questo simpaticone, di questo simpatico rappresentante della Chiesa ortodossa, si chiama Miroslav Gavrilovic, che ha detto che è colpa del gay pride, dei costumi facili e dello sdoganamento della omosessualità, e quindi questo è la punizione divina. Esattamente, allora io che si è abbattuta sui Balcani, siamo alla follia proprio. Vorrei citare il mio amico Andrea Baudino, che ieri sera disse: l'alluvione alcuni nella testa ce l'hanno permanentemente. Ecco, invece la Chiesa ortodossa prende 6 milioni di euro all'anno dai contribuenti serbi, e in questi giorni ne ha donati soltanto 10.000. Complimenti. Facciamo una pausetta, andiamo a sentire un altro brano. Sì, comunque io prima del brano volevo dire che insomma agli ascoltatori, che voi non dovete donare 100.000 euro, credo che se ognuno di noi togliesse dalle proprie tasche un euro del caffè, sarebbe già davvero molto molto importante. Sì, infatti adesso stanno citando le donazioni delle aziende, degli stati, ambasciate eccetera. Non ci aspettiamo che i nostri ascoltatori siano così ambienti, poi se lo siete buon per voi. Cosa ci andiamo ad ascoltare? Andiamo a sentire un gruppo di pop alternativo che abbiamo visto insieme dal vivo in un'occasione. Davvero? Ma io c'ero? A me sembrava di sì, non so, a meno che non eri altrove, su un altro piano astrale. Ma dove l'abbiamo visti? A Novi Sad. A Novi Sad, si chiamano Midica and the Absent Friends. Ma l'abbiamo vista la Cernacuccia? Sì, Midica. Me la ricordo, era quella ragazzina carina. Sì, beh, carina, non carina, questo è soggettivo. Fanno questa specie di dream pop, o almeno questa canzone mi sembra così. Un gruppo giovane, formatosi nel 2011 a Belgrado, questo è il loro primo disco, Snaga Sna, la forza del sogno. Andiamo a sentire i Midica and the Absent Friends. Thank you. continuiamo quindi a parlare di Bosnia e dell'effetto mine. Infatti, in conseguenza delle guerre degli anni 90, molte zone del paese bosniaco sono ancora minate. Molte delle mine, tra l'altro, sono di fabbricazione italiana, se ancora non lo sapeste. Il costo della sminatura è altissimo e richiede personale altamente specializzato. Questa alluvione, alterando il paesaggio, facilmente sposterà e scoprirà le mine sepolte, rendendo ancora più pericoloso un territorio che non era bonificato e poco pacificato. Ora, io non me ne intendo particolarmente di sminatura, però ecco, appunto, gli esperti allarmano appunto su questa questione, sulla questione delle mine. Pare che appunto modificando il territorio e il paesaggio potrà scoprire le mine sepolte, rendendo particolarmente pericoloso il territorio. Sì, arrivano gli aiuti anche consistenti dalla vicina Montenegro. È stato impegnato, sono partiti 6 camion di aiuti umanitari, è stato impegnato anche l'esercito, soprattutto i SUB, essendo un paese costiero, Montenegro, chiaramente. I SUB proprio, quindi gente che fa di professione il SUB. Eh beh, sì, è necessario, insomma, per andare a recuperare. Non l'avevo ancora sentito questo. E poi persino da Kosovo, cioè c'è una notizia che dice che Kosovo offre aiuto a Serbia e a Bosnia. Dice: in questi momenti entrano nel secondo piano le tensioni e i rapporti tra i due stati, che come sappiamo sono tesissimi, al limite del conflitto da anni. C'è il ministro degli esteri nel governo tecnico di Kosovo, Enver Hoxhaj, sì, ha espresso, diciamo, la sua vicinanza ai cittadini serbi per la perdita di vite e la perdita dei beni. Quindi offrono anche loro un aiuto. Su Blitz Online invece pare che appunto da pochi minuti ho letto, perché è una notizia delle ultime ore, che nel sito nestali.rs, ovvero scomparsi, si possono lasciare appunto, sì, i dati dei propri parenti o dei propri amici di cui non si hanno più notizie, quindi nestali.rs. E pare che appunto la lista degli scomparsi sia in più di 30 pagine, per cui appunto queste sono le notizie per niente rassicuranti delle ultime ore. Il Ministero degli Interni serbo ha fatto sapere che per il momento sono stati evacuati 30.873 cittadini, di cui soltanto a Obrenovac, la città a sud, 25 km a sud di Belgrado, 13.603 persone, una delle città più colpite, completamente sommersa dall'acqua. Ci sono delle immagini che girano in rete impressionanti prese dall'alto, dove insomma la città sembra un immenso lago. Le forze di polizia fanno sapere che per il momento sono stati trovati 20 morti, di cui 13 appunto a Obrenovac e 7 nel resto della Serbia. Numeri più alti in Bosnia, per il momento mi pare che si parla di una cifra vicino ai 40 morti, qualcosa del genere. Chiaramente sono ancora alla ricerca degli eventuali corpi di persone scomparse. Allora, solo sul sito di Nestali, nestali.rs, che sto appunto sfogliando in questo momento, sono 300 gli scomparsi, solo quelli appunto nel sito. 330 per l'esattezza. Sì, infatti la preoccupazione è per il dopo, una volta che le acque si ritirano. chiaro, la ricostruzione sarà quella per che... non parlare appunto della ricostruzione e dei danni economici veramente devastanti. Comunque, beh, le Nazioni Unite dicono che garantiranno l'aiuto. La coordinatrice delle Nazioni Unite in Serbia, Irena Vojačkova Solorano, ha dichiarato che le Nazioni Unite garantiranno gli aiuti appena le acque si saranno ritirate. Vediamo un po' cosa dice. Beh, insomma, sono per il momento dichiarazioni abbastanza generiche, comunque non di sostanza, insomma. Non di sostanza, però ci sono dei fondi, è accertato, ci sono dei fondi per i disastri naturali dell'Unione Europea che spettano anche ai paesi candidati. Bene. Quindi ci dovrebbero essere questi fondi abbastanza garantiti, poi non so di che cifre si tratta. Comunque mettono le mani avanti dal governo serbo, dicono alle amministrazioni locali, comunali, di fare attenzione, di essere parsimoniosi, che qualsiasi, diciamo, abuso di questi fondi o dichiarazione dei danni maggiore di quella effettiva sarà severamente punita, ecco. Certo, anche perché sarebbe controproducente, credo, in questo momento. Sì, oltre che, vabbè, eticamente poco corretto. Per i nostri ascoltatori in Trentino c'è un punto di raccolta che si chiama Bar Ristorante René in via Maccani 203 a Trento. La referente si chiama Natasha Vucic e appunto anche qui in questo punto di raccolta di Trento si raccolgono gli stessi materiali che abbiamo elencato prima, ma li ripetiamo se qualcuno si è collegato adesso. Sono cibo a lunga conservazione, acqua, latte anche in polvere per i bambini, pasta, olio, zucchero, farina, omogenizzati, cibo in scatola, prodotti per l'igiene, sapone, shampoo, dentifricio, spazzolini, pannolini sia per bimbi che per adulti, carta igienica, ovatta, fazzoletti, rasoi. Poi appunto i prodotti per gli sfollati come materassi, coperte, cuscini, trapunte, lenzuola, copricuscini, vestiti e scarpe di qualsiasi taglia, di qualsiasi tipo, ma soprattutto ricordiamo gli stivali di gomma di qualsiasi calza di qualsiasi misura e anche calzature, perché sono quelle che insomma più facilmente sono andate perdute. E poi materiale per disinfettare, quindi disinfettanti per l'ambiente, per le ferite, per i graffi, guanti di gomma, guanti in lattice, detersivi e quant'altro. Ricordiamo il nostro punto di raccolta a Collegno, che è appunto sito presso l'Arci Valsusa, che ha sede in Villa 5, in via Torino 9/6, in via Leton Benetollo, all'interno del Parco Generale della Chiesa. Potete portare il vostro materiale tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13, e il pomeriggio dalle 14:30 alle ore 18:30. Però il pomeriggio è consigliabile fare una telefonata allo 011 411 2498, ripeto 011 411 2498. Mentre invece per quanto riguarda le raccolte monetarie, insomma abbiamo dato già qualche indicazione su quelli che sono i conti correnti aperti dal ministero, dal governo, dalle varie associazioni umanitarie. Noi in particolare stiamo raccogliendo dei soldi per conto appunto del console onorario d'Italia a Bagnaluca, per la famiglia Kovacevic. Quindi per la famiglia Kovacevic faremo in particolare un aperitivo presso il centro, sto dicendo il centro sociale perché vedi c'ho sempre blackout di mezzo, no, presso il circolo Arci Asilo, Asylum di fianco a Villa 5, dentro il Parco Generale della Chiesa, venerdì 24 dalle ore 18:30. Avremo una cassettina in cui raccoglieremo i soldi per Dušan Kovačević, appunto bimbo di 5 anni di Bagnaluca, che presto dovrà essere operato per la seconda volta dal dottor Murzi a Massa. I genitori di Dušan, lo ripetiamo appunto per chi si fosse appena collegato, hanno perso la propria casa a causa della catastrofe alluvionale e dispongono esclusivamente della somma per il viaggio in Italia. È necessario che si raccolga una somma di denaro che permetta alla famiglia Kovačević di ristrutturare almeno una parte della propria abitazione, per cui magari il secondo piano, per permettere a Dušan uno spazio che gli garantisca una normale convalescenza dopo la difficile operazione che dovrà sopportare. Quindi venerdì sera, venerdì 24, all'Asylum Circolo Arci di Collegno, appunto, venite, avremo una cassettina adibita. Cosa ascoltiamo? Andiamo a sentirci Gruppo Gradu, un vecchio gruppo post-punk di Rijeka, un album del 1986, la canzone si chiama Grad, la città, appunto. Ci avviciniamo alla fine della trasmissione, tutta dedicata al disastro, all'inondazione che ha colpito Bosnia, Serbia e in parte anche la Croazia, la zona della Slavonia vicino al confine serbo-bosniaco. una puntata un po' sottotono, siamo un po' in linea con l'umore generale. Comunque si è innescato un grande meccanismo di solidarietà, sia dal basso che dall'alto. Qualcuna salute. Scusate, mi sono allontanata per starnutire, ma secondo me si è sentito lo stesso al microfono. Qualcuno ha detto addirittura che insomma da tutta quest'acqua è emerso di nuovo lo spirito jugoslavo. Così alcuni dicono. Qualcun altro ha detto piove sempre sul bagnato. Cosa vorresti dire con questo? Beh, chi ha orecchie per intendere intenda. Comunque io me lo auguro davvero che rinasca, insomma, questo spirito. Lo vedo nel mio piccolo, quindi nella situazione torinese, ma questo nella situazione torinese c'è sempre stato lo spirito jugoslavo. Mi auguro che anche in patria, anche in post Jugoslavia, nasca questo spirito, e sarei contenta se. Sì, una cosa che una volta era scontata, no? Quando capitavano i grandi disastri naturali, appunto nei decenni passati, come ad esempio il terremoto di Skopje del 63, quello di Banja Luka del 68 o 9, non mi ricordo, quello in Montenegro del 79, era scontato che partivano treni, pullman di volontari, aiuti, i lavoratori si autotassavano i propri stipendi per devolvere i soldi alle zone colpite, insomma. E qualcosa è tornato, qualcosa è rimasto di tutto questo, qualcosa che ricorda anche le Radnaxi, le brigate di lavoro, tantissimi volontari che lavorano per arginare i fiumi, per spalare il fango, la fanghiglia che si è accumulata. Insomma, nel disastro totale ci sono anche dei circoli virtuosi. Dai diamanti non nascono i fior, dall'etame invece sì, diceva De André. A parte questi episodi, vabbè, di sciacallaggi, di quelli che si approfittano, vendono i beni di prima necessità a prezzi carissimi. Perché come dice il compagno Baudino, alcuni l'alluvione ce l'hanno perennemente in testa. Ce l'hanno in testa, sì. Benissimo, allora andiamo a... sommerso. Sì. Andiamo a raccontare, così solo a riepilogare velocissimamente quello che abbiamo detto questa sera, le informazioni più importanti, almeno per quanto riguarda... Ecco, visto che siamo stati un po' forse confusi. Esatto, stasera, almeno per quanto riguarda il coordinamento di Torino. Allora, informazione numero uno, prendete carta e penna. Informazione numero uno: nei prossimi giorni, probabilmente non stasera perché ci schianteremo su un materasso, faremo un post in cui raccoglieremo tutti quanti i modi per aiutare i popoli colpiti dalle alluvioni, per cui insomma potrete decidere fra moltissimi conti correnti, bancari, IBAN del Ministero, della Croce Rossa, piuttosto che delle ambasciate. Poi, per quanto riguarda la lista dei materiali che sono importanti da raccogliere, la trovate anche questa sul nostro gruppo Facebook, Balkan Rock at My Radio. A Collegno e in via di Allestimento un punto di raccolta appunto per questi materiali, per appunto le popolazioni bosniache e serbe. Il punto di raccolta si trova presso l'Arcival Susa, che ha sede a Villa 5 in via Torino 9/6, via Leton Benetollo, all'interno del Parco Generale della Chiesa. La raccolta avviene tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 e il pomeriggio, ma solo previa telefonata al numero 011 411 2498. Questo per quanto riguarda Collegno. Per quanto riguarda invece Torino, devo andarmi a riprendere l'altro file. Per quanto riguarda Torino, appunto, l'organizzazione della raccolta è a carico del circolo CH4 e del collettivo Azione Pace Onlus, che al quale poi confluiranno anche le raccolte di Collegno. Quindi Se siete di Torino potete portare il vostro materiale in via Passobuole 29 sabato dalle 10 alle 18 e presumibilmente, se avete tempo, anche restare per dare una mano alle persone che si stanno occupando di smistare e dividere tutti i materiali. Inoltre, per la causa Dušan Kovačević di 5 anni, quindi la sua famiglia di Banjaluka, che devono ristrutturare il secondo piano della loro casa per poter permettere al figlio Dušan di tornare a casa dopo l'operazione al cuore e avere un posto in cui appunto fare una decente convalescenza, raccogliamo i soldi per conto appunto del console italiano a Banjaluka venerdì 24 presso l'asilum Circolo Arci, sempre di Collegno, dentro il parco di fianco a Villa 5. Facciamo un aperitivo con cassettina per i vostri denari. Questo è tutto, direi, no Dušan? Direi di sì, sono le 22 passate, dobbiamo salutarci e a risentirci a martedì prossimo a Balkan Rock. Cosa ascoltiamo come ultimo pezzo? Come ultimo pezzo sentiamo un gruppo progressive sloveno, Vibrolux, un brano del 1977. Sembra un produttore di tapparelle. Sì, una marca di un qualche elettrodomestico retro. Buonasera. Do widzenia z filmu.